Io ci sono. Anche io. C'è un bel QRM oggi perché c'è un sacco di propagazione. Poco fa ho fatto un collegamento, Stati Uniti erano qua, 27 spiccioli in 11 minuti, adesso non mi ricordo chi erano, un tipo comunque mi ascoltava bene, ho appena chiamato e mi ha risposto. E io stavo facendo altra roba, ero in ascolto, ma un po' giù e niente. Non l'ho fatto, non sono riuscito a fare niente stasera. E ma la laterale ti ripresenta, non è in corso, c'aveva anche un po' di potenza, 100 watt, la potenza dell'apparato stavo utilizzando, che se no non ti ascoltano. Sì, era 27235, ho sentito qualcosa, anche in banda laterale, però stavo facendo altro e non... La verità non avevo neanche voglia. Fatti quel nominativo, quello Whisky Mike, che ti rispondono subito, ti danno il loro nominativo, anche se io, cioè mi hanno dato il nominativo, però non sono riuscito a iscrivermi, non ho capito, non mi riconosce, faccio tutti i passaggi, non mi riconosce la password, dice no, password errata, quando gli faccio la registrazione, non capisco, dice inserire almeno una lettera maiuscola, tutto quanto, non me lo fa fare, non ha già compreso una cosa. Io non so neanche cosa è, dove si fa robe? Bisogna entrare, ma lo devo far spiegare da Muros, quello di Muros, che lui guarda, è veramente una cosa carina, per cui c'è l'X Cluster 11 metri, e lì ci sono tutte le frazioni del mondo, che per dire, io lo guardo per le bande radio amatoriali, quando mi interessa fare dei canti, guardo chi c'è, in quel momento ti dà la frequenza, tac, parli, se riesci a collegarti, ma su queste bande degli 11 metri è facilissimo, perché non c'è nessuno, c'è poca gente, non è come le bande radio amatoriali, ci sono centinaia di persone che chiamano, se c'è un country raro, qua è molto più facile, per cui io ho fatto collegamenti, sono rimasto a bocca aperta l'altro giorno, subito, beh, senza nessun problema. Come si chiama DX? Allora, si chiama DX 11 metri, allora, cluster, è scritto cluster, cluster DX 11 metri, o 11, prova a vedere. Ok, ho preso un appunto. Oh, Robè, come li copri? Oh, ma è cambiato l'aria, ti sento, vabbè che c'è un ti stai portando appresso qualcosa, questa propagazione. Ti ascolto bene, ma non è come le altre volte. No, ho cambiato microfono, io ho abbinato un Tanner più 3 a questa radio. Infatti un po' peggio, era migliorato, però già ti ascolto bene, no problem. L'altro era un pochettino più naturale, questo è un pochettino più da combattimento, chiamiamolo. Positivo. No, lo prendo, diciamo, l'ho abbinato per essere un pochino più da combattimento. Se voglio metto l'altro, però allora non aggiungo. No, rimani con questo, non ti preoccupare. Ehi, va bene. Dopo proviamo a vedere questa cosa. Ma c'è l'app sul Play Store? Non ho capito, cosa hai detto? Cosa c'è l'app nel Play Store di questa cosa che mi hai detto? Sì, ci dovrebbe essere l'app, però prova intanto di lì, se riesci a entrare ti dà tutto l'elenco di tutti i collegamenti in 11 metri. Poi vuol dire, c'è quello, io faccio di X-Fang e ci sono tutte le bande radioamatoriali, dai 6 metri si va a salire su, 160 metri arrivano. È un'altra cosa, però il sistema è lo stesso, ti appaiono tutte le cose, le frequenze impegnate in quel momento lì, però questo è carino perché è dedicato agli 11 metri. Guarda, io mi ho scaricato un'applicazione che si chiama, lascia vedere, aspetta che guardo qua, ProHCAP 11 metri. Ce n'è più di una di queste cose, ho notato, ce ne sono due o tre, diciamo una vale l'altra, però se ti iscrivi a questo gruppo Whisky Mike ti danno anche la QSL, 3 QSL personalizzate ti danno, e poi con quel nominativo lì puoi partecipare al coso. È come che c'è un nominativo radioamatoriale, con quello ti identificano subito da dove sei registrato e ti danno, per dire, colleghi Stati Uniti, quelli che sono registrati ti mandano automaticamente la QSL digitale, ed è bello per quello, molto interessante. Cambiando discorso, ma ieri Piazza Tola eri tu, c'era un concerto, cosa c'era ieri? No, da Casula come service. Abbiamo portato una marea di riamplificazione di casse o pallane, ma per uno spazio così ristretto mi ha impressionato la quantità di casse che c'erano. Ampli di chitarra, ampli basso, tutta roba Marshall, sì, no, è attrezzato bene. L'impianto è un ottulare anche quello, però è un lui ha il Butterfly, Outline Butterfly. Le casse, non vorrei sbagliare, ma mi sembra che erano marchiate. Io sono passato in macchina, le ho viste un secondo, possono essere Cabatron, possibile che abbia visto così? No, erano, aveva la Narir, il Butterfly, si chiama Outline Butterfly, e anche il sub, poi aveva molti ampli di chitarra belli, quegli ampli sono belli. Sì, ho visto, cioè la Narir e poi sotto mi sembravano dei subwoofer della Cabatron, almeno era un marchio simile, poi ti ripeto, l'ho visto camminando in macchina, non mi sono potuto fermare. No, aveva quattro centrali dell'Outline e poi aveva gli LSS. Ma mi sembrava un'esagerazione, secondo me, come amplificazione, considerando che erano attaccati a quelli che vendevano la birra e gli spillatori, era a 10 metri, tutto uno sopra l'altro, ho detto, come ancora se ne fanno di una cosa del genere? E quello viaggia molto di... Allora... esagerare non si parla spesso di potenza. Lui per esempio si carica 4 sub in più e 2 tette in più e tiene l'impianto molto tiene l'impianto molto a regime in modo da avere molta qualità, mi segui, non è sbagliato, anche noi facciamo così, portiamo molta roba in più in modo che non devi sparare e scendere molto di ohm, così magari lavori a 4-6 ohm e magari dai 20-25.000 watt a 6 ohm è molto meglio di darne 25.000 a 2, capito? Non sono molto più definito, molto più dinamico. Una riserva di potenza, sì, giusto così, sicuramente è giusto così. Ti devo portare sempre questa roba, abbiamo trovato il modo di rincontrarci, Gavi. Ieri sono andato, non ieri, stamattina, sì, c'era Claudio, infatti dovevo metterci d'accordo, gli ho detto per trovare a te, a Gavino, per darti questo microfono, così ci prendevamo questo famoso caffè, anche se io caffè non prendo mai, un aperitivo, quello che vuoi tu, non c'è problema. Ho detto a Claudio, ci dobbiamo trovare 10 minuti, così gli do questa roba e ci conosciamo e poi ti faccio vedere questa antenna e poi ci mettiamo la cosa eventualmente, dai, non c'è problema per quello. E io adesso inizio ad essere un po' incasinato, tra un po' io prendo, parto e ci vediamo a ottobre. Cos'è, telefono? Certo, c'è una propagazione, non VRT5, stavano arrivando gli americani adesso nel canale 8. Sì, mi sono accorto anche io, Robe. È una propagazione che secondo me è un rumore brutto, ho sentito, cosa è successo? Cosa? Ho sentito un rumore col microfono. A me? Quando stavi parlando, forse qualche contatto. Ma ancora? No, adesso va bene, ma si è sentito tipo quando c'è qualcosa in corto. Forse stavo toccando appena il potenziometro, lo sai. Infatti si è sentito qualcosa, tipo quando metti un dito su dove c'è bassa frequenza, segnale di bassa frequenza, magari toccando hai messo qualcosa, non lo so, perché per un attimo non si è capito niente. Ok, riprendi, un macello, infatti quando la propagazione è troppo ampia così, senti uno sopra l'altro, per dire, dagli Stati Uniti a Venezuela, cose, sì, a cavallo uno sopra, all'altro non si comprende nulla. Sì, ma infatti quando è così non conviene neanche entrare, perché poi succede tutto un casino, non sai chi ti risponde, non sai niente, quindi è inutile farla. E infatti così, però devo dire poco fa, adesso siamo sul 10 e sentivo questo disturbo ed era sul canale 11, stava arrivando 9 più 25, poi sono sceso sotto canale 9, 8, è tutto pieno di queste propagazioni, di questi segnali allucinanti, neanche in città qualcuno ce l'ha tutte quei segnali, quei LS di segnale. Ok, ma avete già iniziato, state già lavorando voi o state solo sistemandovi le attrezzature per i futuri programmi in avvio? No, sistemando, preparando e tutto. preparando e tutto, e ci sono un bel po' di date dei nomadi, e c'è Carlo Forte, abbiamo Carlo Forte, Nomadi e Raff, poi un po' di date di Cattangelo, e dai, c'è un po' di roba. Quindi ci dice da Carlo Forte. Certo. E Carlo Forte, la Maddalena, dai, San Teodoro, Cagliari, Capoterra, Villano Sargia, dai, un po' di tutta la Sardegna. Carlo Forte è un po' scomodo da arrivarci, anche la Maddalena, ma Carlo Forte è lontano, un mese di prendere il traghetto, sperare che non ci sia mare brutto, perché di lì c'è sempre un po' di cose, di macello, ma di lì fa una classe a grave il tonno, verso luglio mi sembra che la fanno. Esatto, il 4 giugno, il 24 giugno, la sagra del tonno. Ah, mentre qua vicino, non so se c'è in settimana, la prossima, a Uri c'è la sagra del carciofo, lì non ne fanno spettacoli. No, non lo so. La prima data dei nomadi è a Bonnannaro, ad aprile. Sono affezionati alla Sardegna, quindi i nomadi. Sì, e beh, ma tutti gli anni, siamo già 6 anni che li facciamo. Sento questo, ma tu sei, Gabri? No, non sono io. Un disturbo che ti copre assolutamente, però a momenti o c'è qualcuno che sta facendo lo splendido, perché c'ha il tuo segnale identico. No, non sono io. Mi ti lascio anche la portante bianca, vedi? No, allora qualcuno che si è divertito probabilmente, perché c'era tipo una specie di pernacchia, però non proprio pernacchia, dai. Cioè, ma lo senti a questo? Li senti tu questo? Sì! È tutta così la banda, tutto così. Cioè tu adesso sali anche più in alto, è tutto pieno di questa mondetta. Vabbè, ci sono le macchie solari quest'anno, c'è il ciclo delle macchie solari, stanno arrivando segnali impressionanti, ma fortissime. Sì. Mi sono accorto. E niente, adesso io appena inizio, guarda, in questi giorni abbasserò anche il traliccio, tolgo anche la grattioli, la metto in garage, metto una mezz'onda così, giusto per accendere la radio quando avrò 2 minuti liberi, e poi la rimonterò a ottobre, perché adesso io prendo, parto e a casa ci stavo poco e niente. Ma ti ho guardato, non so se l'hai visto, quel progettino che è molto semplice da fare, ma c'è una resa a quei dipoli sovrapposti, infatti tipo una scaletta però montata in orizzontale, ti puoi fare tutte le bande, vabbè, 160 metri, 80 metri al limite togli, però funziona, ce l'ho uguale io, ti posso dire che funziona anche una meraviglia, i distanziali fatti con un tubo di quelli di canaletta e divisi i filari, e ti posso dire è un bellissimo lavoro, funziona benissimo e ti fai tutte le HF con quello. Ma guarda Robert, io ti posso dire una cosa, io mi ho fatto un malo 9-1, ti ripeto, un'antenna a filare di 30 metri, e vabbè, te lo devo far vedere perché non ci credi, io su tutte le bande, tranne nella 27, in questa frequenza qua sale un pochino a 1,4, poi riscende, ho sempre 1,1 e 1,2, in 40, 80 metri, 160, 10 metri, dove vuoi, io prendo, te lo faccio vedere, ti attacco lo strumento e ti faccio vedere che cosa c'è di stazionare questo affare qua, zero. Meglio così, no, io senza balum, diretto, mezz'onda, calibrato il coso, vuole sistemato perché diciamo c'è qualche errorino di lunghezza, vuole ottimizzato, però ti posso dire, io non ne ho di coso, di balum, diretto, le misure calibrate con tutti i valori di, come si chiama, velocità, per regolare la velocità, come si chiama, quando fa la formula, c'è il coefficiente di velocità, eccetera, eccetera, ed è calibrato. Aveva dato un radioamatore che l'altro giorno, guarda caso, mi hanno mandato il progetto, ho detto questo è quello che mi hanno fatto a me, perché ho ripreso in mano un vecchio progetto di un altro radioamatore qua di Sassari che a sua volta l'aveva preso da un altro, ne ho tolto, ce l'ho per 3 bande ed era in origine 4 bande, però si può fare anche 5 bande, 6 bande, quello che vuoi. Però se mi stai dicendo che riesci ad andare avanti con quello, futtidini, fammene lo stesso. Questo magari può servire per fare comparazioni di antenna, come faccio io, perché me ne metto 3 o 4 di antenne e poi faccio le comparazioni. Per dire, l'altro giorno ero con un'antenna, quella con web, gli altri arrivavano fortissimi con le altre antenne e segnali con la manta, ma mettevo quello S1, però con le altre antenne non riuscivo a entrare. Come attaccato a quello, tu, 5-9, 5-9, ho detto cavolo, e l'ascoltavo S1, spara una potenza allucinante, c'è un balloon, aspetta, se non, forse 9-1, sì, però è una bomba, è un tipo di antenna, una co-web si chiama, tira dentro, c'è un'energia di pari 4000 volt, c'è all'interno con l'antenna, infatti ho detto, devi stare attento quando sei vicino, se no ti tipi di qualche scarica, però tu senti niente, per dire, un S1, però, cacchio, loro ti ascoltano S9. Sì, sì, sì, ma guarda, io le faccio le comparazioni, allora, siccome qua nell'ICOM io ho 2 antenne, no? Posso mettere, lo metto l'aggressivo lì, l'antenna 1 e la filare antenna 2. Quello che mi arriva con l'aggressivo, il segnale 5, 7, magari 8, quando vado all'antenna 2, ce l'ho 9,30, 9,40. Ho un video che lo dimostra, in pratica cosa succede? Però quando vai per esempio l'antenna 1 su 7000, ti faccio un esempio, 115, accordo la grazioli, accordo veramente la grazioli, perché va da un segnale di 1, 2 a un segnale di 7, 8. Poi vado su antenna 2 e accordo, vado su antenna 2 e c'ho il segnale 9,30, 9,40, 9,20, accordo e il segnale è sempre quello, quindi 1 più 1 fa sempre 2, quella non ha bisogno di nessun accorgimento. Io ci ho messo l'antenna lì a farmela un mese calibrando addirittura anche la gradazione, siccome l'ho montata a V invertita. In pratica ogni la terza e la fine sono a 2 metri da terra, mentre la punta della V è a 12 metri da terra, 12 metri da terra, ripeto, il capo è 30 metri. E poi gli ho azzeccato l'angolazione perché gli ho dato più o meno 120 gradi. È un po' svoltata in asse verso avanti, diciamo verso avanti del malo. E quindi va bene, dai. È importante anche l'altezza molte volte, perché io devo dire che le vie non è che sono messe, le filari che sono messe in modo perfetto, però già riescono ad andare, ha fatto dei bei collegamenti. L'unica paura, l'unica cosa è che adesso non posso utilizzare quella di 40 metri, infatti vado solo in verticale in 40 metri, perché deve esserci qualche problemino, c'è una calza, la calza di collegamento del cavo che deve aver ceduto, infatti non riesco a accordarla, e con quella mi ha portato grande soddisfazione, mentre sulle altre bande dai 20 metri in su va più che bene, anche 80 metri con l'altra a filare, e poi quando devo fare 40 metri devo utilizzare la verticale, boh. Sì, ma se tu sai, ti ricordi Robè che avevo preso quella Firenze 2? È arrivata a proposito? Sì, sì, mi è arrivata e la sto usando, se sai dove dici è impossibile. Boh, e dove sta usando? 20 metri? No, guarda, sto prendendo anche 404, io a voi quando è, comunque la linea sto usando, cioè paura, segnaloni, allora, poco fa tu mi stavi arrivando, segnale 9.15, segnale 9.15. A spiegarvi che qualcuno si sta divertendo, non ho sentito quello che hai detto, e riparti dall'inizio, su che frequenza l'hai provata? Poco fa tu eri in attività, giusto? A 5.25. Positivo. Sì, sì, c'ero con questo ragazzo che stava rientrando, con Francesco, stava rientrando dal Alghero, dimmi tutto. Mi arrivavi 9.15 qua, con quella Firenze 2. Figurati, non è dedicata per quella frequenza. Secondo me sì, secondo me è VHF, è un'antenna bibanda, però prende anche, cioè però è un'antenna che va anche 27, e stranissima roba, perché è un'antenna che è alta 1,70 m, a 4x4, la devo far vedere perché boh, è un'antenna stranissima. Ricevo, cioè in pratica in PRM ricevo tutto, posso anche parlare, non ha problemi di niente, mentre sulla 27 ha tre di stazionario, però logicamente ricevi bene, sulla 27 ha tre di stazionario, però fino ai 4,70, 4,80 è assurda. C'è una marea di disturbo allucinante, ma proprio sentate il telefono quando poi stai ricevendo il segnale del telefono, una telefonata, addirittura si sentiva quando stai parlando tu, o c'è qualcuno che si sta divertendo? Non lo so, Robo, vabbè, fai divertire. Chiamati, che ho qualcuno ha chiamato, vai capi. Sì, non lo so, e vabbè. Tra un po' già la smettono di fare queste cose, dai. Vabbè, si mettono così, comunque non diamo le troppa importanza. Cosa volevo dire? Non è provata quindi il 27 a provare a accordare, cosa c'ha? Un gamma match c'ha per regolare le stazionali. Buonasera Franco. Ma chi è che non sento nessuno? Il basso, cosa ti è successo? Ma non sta facendo di radio, se Franco. Franco, ci sei? Io sento la portante ma non parla, 9:10 ma non parla. No, sta parlando ma sta facendo il basso, Robè. No, io vedo solo la portante, non riesco a sentire niente, arriva quasi 9:10, però non si capisce, c'è una confusione totale, probabilmente li mangiano la modulazione queste propagazioni, questi segnali qua. No, devo avere qualche regolazione Franco da fare, perché Franco da Sorso, perché a me mi arriva a fondo scala, però sto facendo bassissimo di radio, mi segui? Ciao. Oggi sono passato a Porto Torres, vicino alla casa di un amico SWL, ho visto le antenne, c'è la Mantova, due antenne per le V e le U. Scusa un attimino, Robè, vai Franco. Sto scendo sempre basso, Fra. Ma basso di amplificazione, di microfono. Yeah, tranquillo. Mi stavi dicendo come ha Porto Torres? Che lo conosci pure tu, non facciamo il nome. Non ho visto le antenne, mi aveva detto che zona era, sono passato davanti, ho alzato lo sguardo vicino di lì a Loccone, dai. Quelle zone lì ho visto le antenne, c'erano davanti, ma due verticali per le VLU dovevano essere. Sì, già lo conosco. Franco si è spostato un attimino per vedere un pochino questa cosa del magari, perché sto facendo un basso di amplificazione microfonica, non di potenza, vero Roberto? Che ti arriva di segnale buono? Sì, adesso l'ho sentito anche io, dille a provare a muovere il connettore del microfono sulla radio o viceversa, se c'ha l'MC60, perché capita qualche volta, magari qualche granellino di polvere, magari a toglierlo e rimetterlo dentro. L'ho sentito basso di radio, però adesso l'ho sentito. No, di quella Firenze 2, sì, guarda, sono contento perché era in garage, come è arrivato, l'ho provato, visto che ho detto a Napoli, ci ho buttato 40 euro. Però l'altra volta mi è salito lo spero, ho fatto bene, adesso vado a vedere nel ricevitore, intanto, persa per persa la trovo. Vabbè, attacco la cosa, 10 volte in più del discone prende. E quindi c'è guadagnato qualcosa, almeno la sfrutti, sono contento, dai, molte volte ci sono delle sorprese, ma è nuova come condizione quell'antenna, mi pare mi ha detto di sì. Mai installata. E quindi hai fatto un affare pure, perché se così non so neanche di quell'alluminio magari che sembra buono e poi tutto all'interno è tutto fradicio, dai, meglio così. È presente la testata del motorino del sì. Così. Bravo. la carica è così, il, diciamo dove c'è la carica è così, quella dimensione. Capo, vediamo se Franco si è sistemato la situazione. Ci sei Franco? Io ho chiamato un paio di volte queste sere, anche ieri, avanti ieri, venerdì notte, sabato notte, però non ha risposto nessuno, perché ha detto magari c'è Gavino, perché lui molte volte è entrato con le 9, invece qui non c'è nessuno. Allora, venerdì notte mi sono messo a fare cosa fuori e in garage non sono entrato, ieri notte l'ho invitato e no, bugia, venerdì sono entrato a salutarvi perché poi stavo facendo cosa. Ok, e adesso com'è? Vabbè. Adesso sei tu, va benissimo, 9-10 segnale, modulazione bella e pulita. Capo, vai, microfono, 11-60, ho tolto il cavetto di dietro e l'ho rimesso. Associatina è partito. Sì, lo fa, l'MC60 lo fa, più di una volta succede. Capo, più che quello non era, perché il microfono è nuovo. Non nuovo, nuovo, nuovo, però è nuovo come microfono. A meno che, ho detto, non sia successo qualcosa alla scheda, però vedo di no, meglio così. Va bene, ottima per la truppa. Ok, riprendi Gabriele. No, infatti ho detto, ho visto il segnale, ho detto, questo è Franco, però ho sentito in radio e non l'avevo fatto, detto, ma sicuramente ho pensato anche io al microfono, ho pensato anche io al microfono. E quindi fra, manicato. Capo, tutto a posto. Adesso una rete e poi ce ne andiamo a nanna. Sì, e anche io, domani mattina devo essere alle 8 a Catanzaro, quindi prendiamo e facciamo un pochino di una mezz'oretta e poi a nanna. L'hai visto su Amazon quell'affare, fra? Visto e acquistato. Bella mossa. Ti arriva quando? Ieri. No, al 30. Sì, già va bene. Dai, è importante averlo preso. Dai, Robert, riprendi. Capa. Cosa volevo dire? Adesso mi sono dimenticato, bisogna dire qualcosa. Vabbè, se mi viene ve lo dico dopo. Sto guardando in sottofondo la partita, la Juve stava vincendo 2-0, in due minuti gli ha fatto due gol a Sampdoria, 2-2. E se non state attenta ne prende un altro pure di cosa. Non so se siete tifosi di calcio, però fa ridere molte volte il calcio. Sembrava una partita stravinta, in due minuti gli ha fatto due gol. Franco, riprendi tu il mic. Capo, no, vabbè, a me il calcio non mi dice niente. Non lo guardo neanche, figurati. Non sono. È un tipo di sport che non mi piace. Più di tutti un po' le moto, macchine, del resto, proprio calcio, zero. Avanti, capito? Lo stesso idea con patate, io il pallone l'avrei fatto due cuffiette per uno, capito? Niente, a me proprio il pallone non mi attira, a me piace il rally, il rally, se di sport è qualcosa di MMA, ma non seguo il calcio proprio zero. No, vabbè, io seguo tutti gli sport, diciamo, più o meno, da rally bellissimo sicuramente, ma ho visto tanti Costa Smeralda, sono un po' che non ne guardo, però da ragazzino andavo sempre a seguirlo, Costa Smeralda, però il calcio, io sono nato in mezzo al calcio, mio padre è fondatore di una squadra di calcio e io sono allenatore da tanti anni, per cui sono vissuto in mezzo al calcio, per cui li seguo sempre. Poi mi piace anche la Formula 1, anche se devo dire un po' di meno questi anni, MotoGP lo stesso, e poi seguo un pochettino la Dinamo e pallavolo mi piace vederla, diciamo un po' tutti gli sport mi piacciono. Riprendi Franco. Capo, saranno belli gli sport tutti quanti quando sono corretti. Poi il calcio, per esempio, la Serie A ormai è diventata un lavoro per quella gente, è diventato, non è più uno sport, è solo calcio per interessi. Avanti, capito? Sì, infatti, no, ormai ci sono troppi interessi di denaro. ignorante, almeno parlo da ignorante, ignorante in materia, perché io nel calcio non me ne intendo, però a quello che sento, a quello che vedo nei telegiornali, perché poi c'è lo spazio dedicato allo sport, al coso, almeno il calcio della Serie A, non il calcio in generale, il calcio della Serie A è di alcune squadre, è di alcune squadre. Poi facciamo quello che vogliono, non mi interessa più di tanto. Ripeto, io avrei fatto delle cuffiette, poi presi i palloni e fatti le cuffiette, aperti in due e poi ti incapo. Vai fra. Capo, ma è così, vabbè. Poi gli sportivi sono sportivi, l'importante è essere sportivi, non fanatici. Avanti Roberto. No, mi sono andato un secondino, va bene, c'avevo la bocca asciutta. Ho preso il, come si chiama? Uno di quei panini da Roberto, fratello di Renato, sono buonissimi, ma ti fanno venire un po' di sete, il capriccio, non so, solo prendete vai, ketchup, speck e formaggio, diciamo, e la fontina, te lo sciolgono insieme, è buonissimo, però la sete viene. A Movo. A Movo l'ho preso qualche volta, ma un po' pesantuccio, dai, per i miei gusti. Buonarito e Roberto, doppio formaggio a Movo e... per una spruzzatina di maionese, buono. E poi logicamente non ha niente a che vedere con un bel panino, salsiccione, pancetta e capocco, un bel 1 o 2 litri di vino rosso e poi anche un pezzettino di, anche una Seadas, 2 Seadas col miele, vai fra. In tutto quel discorso mi è piaciuto più il vino rosso. Cosa? In tutto quel discorso mi è piaciuto più il vino rosso. Il vino rosso, sì. In tutto il discorso. Capita, io quando assaggio un vino rosso buono ci esco di testa, me ne bevo 2 litri. È un casino me. Io col vino rosso buono mi so regolare. Perché poi non è che lo bevo in giro, a me è uscire, no? È bere vino, non mi piace bere, non mi piace. A me piace mettermi a casa e bermi, ma se il vino buono vai bevo anche 1,5 litri, 2 litri, a me no. Io probabilmente non me ne muovo, fra. Capito? No, non è proprio una cosa che mi disturba. Vai Robè. No, io non sono bevuto così, assaggino, ma non in quantità. Poi a parte che se mi bevo più di un tanto mi iniziano a vedere le allucinazioni, vedo gli uccellini che volano. No, non sono abituato io, assolutamente. Quando c'ho sette bevo acqua, come quelli che bevono la birra al posto dell'acqua, si mettono 3 litri di birra, così a uffa, senza niente. Infatti, come fai a mettertela dentro? Dice, io quando c'ho sette bevo birra, dice d'estate, io quando c'ho sette bevo acqua. E come acqua non c'è nient'altro, naturalmente la birra fresca è bella tutto quanto, ma non mi disseta come l'acqua. E mentre il discorso del salsiccione è buonissimo, bello, come dico io, anche se vuol dire carne ne mangio poco e niente io, però se il salsiccione è fatto bene, sottile, ben cotto, però prenderlo dalle cose così, dalle bancarelle, ho visto cose troppo sporche, mai più, non è più, mi viene un pochettino di senso prenderlo. No Robè, allora, quando ho sette io bevo acqua e acqua gasata, io bevo molta acqua, a me piace molto l'acqua gasata, però io quando ho sette, soprattutto che sono al lavoro, io non tocco niente, ma niente, proprio zero, magari cioè proprio che magari perché io sono iniziato a bere anche 3 litri d'acqua, bevi tanto, non bevo birra, non bevo alcolici, magari poi c'è la cena, intanto ti dicono tu assaggia questo vino e uno dei bicchieri te li bevi, ma te li smaltisci in 10 minuti. Però quando sono a casa, soprattutto magari cosa ne so, il sabato, che prendo, compro un po' di carne, me la faccio qua. Mi piace per esempio prendermi anche da solo con la mia famiglia, no? Con la mia famiglia prendo formaggio buono, salsiccia buona e io arrostendo io arrostendo un litro di vino me lo bevo, solo arrostendo, poi mangiando me ne bevo un altro litro, però poi magari poi mi corico e mi sveglio dopo un paio d'ore, però deve essere vino buono, e perché non mi dare imbottigliati, non mi dare, perché non ne tocco, non ne tocco. Neanche birra io bevo, birra me ne posso bere una bottiglia ogni 6 mesi, però il vino, caspita, il vino rosso, forte, a me mi piace il Canonau, il Nepente, ne vivo un bel Bibbiasi, quando sono a casa, ripeto, arrostendo, e quindi fra. Ecco, una volta bevevo anche io così, non adesso, adesso massimo 2 bicchieri mangiando, bubbassa. Finito tutto, e quando c'è 7 e buona leva, altro che 9, non vale, non ci vuole né birra né vino, perché con la 7 ci vuole solo l'acqua. Ma lo so, ma io ho amici, mio cognato, se vuole bevendo birra ti mette le mani in testa, io dico, ma diti i rabboni, dove te la metti? Quello beve la birra come l'acqua, e acqua, se tu vai per dire a me, dici per dire c'è sete, proprio c'è caldo al mare, lui si porta la birra, acqua non è beve. Quello beve tanto per dire che beve, ma non va bene perché l'acqua ci vuole. Se tu ascolti i medici dicono. Perché io conosco gente che non beveva acqua, beveva birra, queste cose qua, una volta caduta malata, gli hanno detto che era disidratata, come cavolo era, perché non beveva acqua. Certo, io ho mia figlia, la grande, quell'acqua quasi niente ne beve, infatti dico, ma è possibile, ma come fai? Non ne ho necessità, e bere l'acqua, ogni volta mi azzuffo, quando viene a casa, dico, ma come fai tu? Bevi un gotto, niente, non beve niente, infatti dico, mica che non c'è da scherzare, l'acqua deve lubrificare, deve idratarti, eccetera, se no ti crei degli scompensi, io senza acqua guai, io muoio senza l'acqua. Rubizzino invece se ne beve 3 litri di acqua, quello è tutto il contrario, quello che beve in abbondanza, una fontana se ne beve. Ma è buono, vabbè, buono, perché il corpo umano ha bisogno di 2-3 litri al giorno, mio, ha bisogno d'acqua, non poco, solo che noi non ce lo beviamo tutta quell'acqua lì. Diciamo io magari 2 litri no, ma 1 litro e mezzo già me li bevo, anche di più, d'estate anche di più sicuramente, d'estate d'inverno un po' meno, però già io ne bevo giusta, di quantissima, non bevo robe gasate, perché so che la fanno male, l'acqua gasata la evito, anche l'aranciata, cose così, cerco di prendere tanta frutta però io mi idrato mangiando frutta, adesso ho preso ieri una bella cassetta di arance di Muravera, veramente buona, proprio con gusto tra le mance. Ripeto, a me una volta al mese prendo, sì, io il vino lo bevo perché una volta al mese il gusto me lo tolgo, mi piglio 2-3 litri, 5 litri di vino e mi vado di 2-3 fusati, non mi interessa. Lo vedi, non bevo Coca-Cola, queste cose qua non le bevo, magari posso bere mezzo bicchiere d'aranciato ogni tanto, ma proprio Coca-Cola zero, per esempio non bevo superalcolici, non bevo stupidaggini, Red Bull, mai bevuto quella roba, io ho sempre bevuto o vino buono, a me mi piace un bel vino buono. Certo, il vino buono piace un po' a tutti, anche quelli che sono quasi a seguito, quasi, va bene, l'acqua comunque ci vuole, troppo esagerato e poco esagerato lo stesso. Forse poco fa ho parlato sopra di Gavino, no, stavo dicendo che io evito le cose gasate, qualche volta l'aranciata, ma proprio quando non le puoi fare a me le scenesci, mi voglio togliere il gusto, Coca-Cola, quelle cose le evito, acqua naturale non è meglio roba gasata, perché non fa tanto bene, poi ho avuto delle coliche renali e mi hanno raccomandato, evita le cose gasate, le cose fritte, che so cosa vuol dire il dolore delle coliche renali, per cui bisogna stare attenti, devi bere tanta acqua, possibilmente di qualità, l'acqua che uso io già è buona, cioè il depuratore a casa, per cui l'acqua è ottima, quella che bevo. Ok, vai Gabi di nuovo. Io bevo un bel di San Martino, ma ne bevo un bel cammina, però non ne beviamo tanto. Io a fianco al letto c'ho l'acqua, la notte mai quando mi sveglio vorrebbe con mezzo litro, un litro alla volta. No, io naturale sì, però frequentemente San Martino è assurda. L'estate me la porto in serata, la borsa a frigo con i ghiaccioli, bella, capita, quando ti bevi 2-3 bicchieri di quell'acqua diventi un demonio. Secondo me è assurda, vai fra. Non mi va a venire a sedere, allora. Se no mi tocca andare a prendere una birra. No, a proposito adesso vado in bevo un bicchiere d'acqua, l'ho visto, parlando. Vabbè, entro subito. Eia, così ero me. Guarda, quando rientrate vi racconto un po' dell'acqua, perché dell'acqua non per vantarmi c'è una cultura, dopo vi dico qualcosa, facciamo rientrare a Gavino, così ascolta anche lui, e lui mi dirà dopo il suo parere, anzi mi darete direte il vostro parere. Capo, via. Bene, stavo scendendo sul microfono, sì. Assolutamente. Era una cavolata. Ogni tanto bisogna togliergli gli spinotti e dargli una forzatina. Sì, c'è detto anche del grasso di vasellina. Io nei contatti marini dove c'avevo gli spinotti del carrello della barca, ogni volta si ossidava, alla fine ho messo del grasso di vasellina pulito, lo infili dentro con lo stecchino, se per dire, nei contatti, e non ti rompe più le scatole. Sì, vabbè, ma questo è proprio il pelle, ma il pelle è come ciò, ed era lucido, nuovo, è come che lo compri adesso, dai, che ci hai comprato adesso. Eppure vuol dire che qualche cosa di... se non faceva contatto c'era. Lo sai cos'è, quando ci sono tanti contatti, magari uno spinge di più, l'altro un po' di meno e gioca un pochettino, eccetera, eccetera. Ogni tanto magari è bene toglierlo, pulirli e rinfilarli, perché si formano magari delle ossidazioni. Infatti, non li avevo mai tutti quello, dal microfono proprio, dal gelato. Non li avevo mai tolti. Capo, vediamo se è andato Gavino. Gavino, quell'acqua è diventata rossa. Ah, gli volevo dire due paroline per l'acqua. Gavino, ci sei? Così vi fate due risate. Ho due pensieri, dai. Pronti? Ci sei, Gavino? Pronti? Allora, adesso ti dico una cosa. Io, non per vantarmi dell'acqua, qualche esperienza ce l'ho. Sei presente che io sono 20 anni che non compro acqua. Io bevo acqua del rubinetto col depuratore a carboni attivi. E l'acqua del rubinetto è la migliore acqua che c'è in circolazione, ricordatevi. Perché c'ha tutti i parametri calibrati dal Ministero della Sanità e non esiste nessun'acqua in commercio che c'ha i valori ottimali come l'acqua di rubinetto. Parliamo dell'acqua di Sassari, è una delle migliori acque d'Italia, almeno qualche anno fa era la terza migliore acqua d'Italia. Poi non parliamo di acqua sporca, perché quando riaprono le tubature per dire che manca l'acqua, anziché dare la pressione piano piano, aprono di colpo e si porta via tutto il carrellaggio che c'è dentro. E finché non si pulisce, trovi l'acqua turbida. Ci sono dei valori ideali dell'acqua. Per i bambini non deve superare il sodio di 3 microgrammi per litro. Stamattina lo sai quante ne ha di sodio, Gavi? No, Robe. 750. Sta bevendo acqua di mare. Il residuo fisso sarebbe il ferro, la conducibilità elettrica, il residuo di ferro. Per i bambini l'ideale è 30. Lo sai quante ne ha da stamattina? 1300. C'ha dei valori assolutamente fuori norma. Quell'acqua lì non è potabile per uso civile, parliamo, se tu la metti in rete non la puoi, non entra assolutamente nei valori di rete, la possono imbottigliare perché fa parte dei limiti dei valori di imbottigliamento, però è una delle peggiori acque che abbiamo in Sardegna. È buonissima perché tu la senti dissettante, questo sapore del sale, te ne bevi un bicchiere e ti dissetta subito, ha vinto una marea di premi, tutto quello che vuoi, però qualitativamente è la peggiore acqua che abbiamo in Sardegna, è molto migliore Santa Lucia, la Blues, eccetera eccetera. Io ho sempre bevuto acqua San Giorgio convinto di aver che cosa, invece nulla. La migliore acqua che abbiamo in Sardegna è quella di Sette Fuentes, la San Leonardo, che si avvicina, ma solo si avvicina ai valori standard dell'acqua di rubinetto. Io ho fatto delle prove, delle sfide con chiunque, e se capita le possiamo anche rifare. Voi mi portate qualunque acqua che avete voi, a parte che non sia gasata, poi io ve le faccio assaggiare, le mischiamo e dico, io dimmi qual è la migliore. Quando bevi l'acqua mia, questa è buona, poi ne bevi un'altra, questa c'ha un sapore strano, e quella è l'acqua che bevete tutti i giorni. Vai Gabri. Ascolta, e l'acqua della Billenna invece quanto ne ha? Cazzo mi ha passaggio, per poco mi addormentavo sul mic. Ciao Tino. Buonasera, buonasera. No, era un discorso lungo, però l'ho detto così, no, senza interruzioni. E poi adesso fate commenti e dite voi. Ok, cambiamo argomento. Com'è questa radio? Prova a parlare. Dopo mezz'ora che sto parlando mi ci provo a parlare, va bene. Già va bene, sì, pulita, bella, già va bene. Chiediamo anche a loro. Sì, esplicito proprio. No, ti sento bene, pulita, naturale, modulazione tranquilla. Allora, io ho preso la motoretta per seguirti nel parlare. Hai una parlantina così talmente veloce, vabbè, che ti può seguire, veramente, credimi. Già lo so, purtroppo non ci riesco a parlare piano, è un mio difetto, dai. No, non è un difetto, per carità. Ognuno parla come meglio e crede, però uno si deve stare dietro. Vai Gavino. Ciao Tino, buonasera e ben sentito. Ciao Tino, buonasera e ben sentito. Vabbè, questa cosa, vabbè, io non la sapevo perché non mi sono mai interessato. Però è buona. È buona, lo so, se guardiamo tutte le cose che fanno male non dovremmo mangiare neanche il pane. Tu poco fa hai detto che hai mangiato il panino, com'era? Il capriccio si chiama, speck, pomodoro, ketchup e fontina sciolta in mezzo, 2500 calorie per centimetro quadrato. No vabbè, ogni tanto si può fare, certo non è salutare, però l'acqua San Martino buonissima, niente da dire, io la bevo quando me la fanno assaggiare, è la più buona di tutti, però se c'hai problemi di calcoli quella lì ti dà proprio la mazzata più grande, perché ti fa dei residui di sale dentro il coso, i reni che neanche ti immagini. Ma per preoccuparti, mezzo vino è buono, rosso e basta. Cosa fra? A non preoccuparvi dell'acqua, tanto bevo il rosso. Ciao Franco, scusa se non ti ho salutato. Figurati, ciao Tino. Capito Robè, a Franco gli interessa perché lui beve il rosso e basta. Lui vede solo il rosso, come il toro. Quando lui vede la roba rossa, no, per come lo bevo io, a me il vino peggiore è quello che mi mette il moscato, quello dolce di Tempio, io lo adoro. Lui mi fa assaggiare quei brutti, quei vini cosiddetti preziosi, non mi piacciono. Non bevo neanche sfumante, io bevo Canonà, ho fatto in casa i 15 gradi, e tu che buono, riprenditi. Ah guarda, io parlando di acqua, effettivamente a me piace la San Martino, però quella leggermente frizzante. Parlando di vino, forse perché mio padre quando aveva il bar mi ha trovato tantissimo e non ne bevo solo birra e acqua giustamente. Non bevette birra e Knusa e neanche Heineken. E perché? Perché la birra e Knusa allora. Non avete tempo, un paio d'ore ve lo racconto. Racconta, perché cosa c'è la Lichnusa? L'ho già sentita l'altro giorno, però non ho capito per quale motivo, io l'ho sempre bevuta Lichnusa, e addirittura mi ha detto bevete Lichen al posto di Lichnusa, non è la stessa cosa. Esatto, allora la birra Lichnusa e l'Lichen vengono fatte in Sardegna, e fin qua ci siamo, giusto? Dove viene allora? Lichnusa allo stabilimento vicino a una cava dove estraggono del minerale per fare questa cava qua. Questo materiale viene mandato in Russia, in quei paesi, per fare delle armi, per fare delle armi, non mi ricordo che cosa, che tipo di materiale viene estratto, comunque c'è in internet. Questo materiale viene lavato con l'acqua, questo materiale viene lavato con dell'acqua, no? gli fanno i lavaggi. Questi lavaggi sono andati a finire nelle falde acquifere in cui viene prodotto, dove viene prodotta, cioè quest'acqua, producono, diciamo, dove viene prodotta la birra, capito? Lo so, dove viene prodotta la birra. Niente, non bisogna bere, io me la sto mettendo così, sto trovando i termini più rapidi possibile per non fare un passaggio lunghissimo. In pratica, quando lavano questo materiale qua, diciamo gli scarti di lavorazione vengono assorbiti dall'acqua, diciamo questa acqua qua è andata a finire in queste falde acquifere, sotto dove viene lavorata la birra, sotto dove viene lavorata, dove c'è la fabbrica dell'Heineken e delle Knusa. Mi siete mai spiegati perché l'Knusa vuota rendere o l'Heineken fa bruciore di stomaco, queste cose qui? No, l'ho sentita anche io questa storia, non lo so, non posso darti risposta, però prima era considerata una birra pulita, eccellente rispetto alle grandi produzioni, invece adesso, già l'altro giorno uno ha detto no, birra chiusa non è brevetta, poi se è vero quello che mi stai dicendo tu ci credo. Vediamo Tino che ci dirà la sua e poi Franco, avanti Tino. No, io sinceramente parlando non ne ho sentito e tra virgolette sono fedele alla Dreher, anche se l'Inclusa è una birra salda come detto Calvino, però a me piace più la Dreher. L'ho bevuta alcune volte, non l'ho sentita questa voce, però vabbè, mi informerò. Vai Fra. Ma diciamo una cosa, se è uscita questa voce qua, la sanno un po' quasi tutti a quanto sembra, perché lo Stato non la chiude questa roba qua. È una roba in pratica che diventa un po' tossica. Così è, vabbè. Non lo so, sta dicendo Gavino. Io anni fa avevo seguito una trasmissione, che poi sarebbe Altro Consumo, una rivista specializzata dei consumatori, e avevamo fatto le prove di tutte le birre più buone come qualità, non di gusto. Il gusto è importante, però qualitativamente il materiale migliore, il tipo di lavorazione, eccetera, eccetera. E la migliore birra prodotta in Italia era la Peroni Nastro Azzurro, perché aveva tutti gli stabilimenti in acciaio inossidabile, tutte le tubature, super controllate, eccetera, eccetera. È stata la migliore birra in Italia, parliamo di qualche anno fa, e a me piaceva la Peroni, come mi piace la Moretti, qualcuno dice quasi schifo, a me la Moretti piaceva, quella 8 lupoli o 10, come si chiama? Bravissimo, anch'io prendo sempre la Peroni e la Moretti, la 4 lupoli. La 3 e la 4 lupoli, quelle sono birre che sono accettabili e sono buone, e anche la Dreher non è male, ma è un po' più diciamo ranziga, è un po' più ranziga. L'Knusa, in pratica la storia Franco, la storia dell'Knusa è stata censurata, è una cosa che è stata censurata perché questo ricercatore ha provato a diffondere e a denunciare questa cosa, un ragazzo sardo, ha provato a diffondere, a esporre questo problema, ma i poteri forti, il denaro ha preso e mi hanno fatto censurato questa cosa. Però tramite vie traverse, cioè il passaparola, esponendo i suoi programmi ed esponendo il problema in sedi private, la cosa è uscita fuori. A quanto pare ci sono dei controlli. A quanto pare fare, dei controlli ci sono stati già fatti, capito? Quindi tutto è veritiero, però si tende sempre a nascondere tutto. È come diciamo, è come il nostro casificio sardo, quando era nata lo scandalo del latte in Sardegna. Il noto casificio sardo era quello che faceva le manfrine, quindi non, ci sono tante cose che vengono nascoste. È come il discorso della vendita del pesce. Voi pensate che il pesce che trovate nei supermercati, quello bello, quello con l'occhio pulito, è il pesce che ha l'occhio bello chiaro, bello luccicante, bello trasparente, è fresco di giornata. Quel pesce viene lavato, tralavato con ghiaccio e sale. È difficile trovare il pesce fresco. Il posto dove si può trovare il pesce fresco attualmente, cioè nei giorni d'oggi, è il mercato di Sassari, perché di lì i pesci vendoli vanno direttamente dal pescatore. Riprendi, Franco. Allora siamo sempre punto e a capo, perché ci fanno mangiare della roba che non è mangiabile, e ce la vendono e anche a prezzi alti. E la roba non è buona, tutto per fare, per che cosa? Per fare soldi e basta, tutta questione di soldi. Avanti Roberto. Facciamo attendere a Tino che parcheggia, avanti Tino. Sì, va bene, dai, entro con una radio più rilassante, così almeno mi ascoltate inizio. Comunque sto guardando di sottofondo la partita della Juve, da 2-2, adesso è quasi finita, siamo in recupero, 4-2 appena segnato quel ragazzino su lei. Va bene ragazzi, dai, io mi devo preparare la roba, rimango in quel X, che così almeno mi preparo la roba per domani. Niente, ascolto le saluti e poi vado via, riprendi Roberto. Ok Tino, grazie del consiglio, dai, ci sentiamo presto, buonanotte, buon tutto, buon lavoro per domani, anche io qualche minuto e chiudo anche io perché domani si trabacca. Vai Franco per Tino e poi Gavino. Via, ciao Tino, buon proseguo, buon tutto, dai, e buon lavoro per domani, ce la riascoltiamo. Avanti Gavino. Tino, sei entrato col carro armato, sa farci i saluti, sa meglio ti sentivamo, ovvero? E la differenza c'è. Va bene Tino, va bene. Dai, buonanotte, tutte le prossime. Domani io almeno parlo di me personalmente. Io dopo cena che credo di essere in radio anche domani, sperando. Ok? Ciao Tino, buonanotte, buon tutto e buon trabacco per domani, alle prossime. Io lo stesso, domani mi sono in una zona di vino, Franco, c'è la mosca, quindi anche se non c'è, però intanto sono nella zona, dove producono un buon vino, dico. Va bene, ciao, divertite ora. Sì, no, sei in un punto buono, ci ho lavorato anni lì, quasi 6 anni ci ho lavorato, ed è buono il vino, veramente buono. Ma io sono per liberare un tubo di drenaggio che hanno loro e praticamente stanno facendo danno ad altri confinanti per via delle perdite di acqua che hanno, quando piove si allaga, insomma, è un casotto. E questo qua, insomma, dopo 27 anni è riuscito a vincere la causa e gli stanno facendo togliere questo tubo dreno che allagava la sua campagna, capito? Quindi è un tubo anche importante, un tubo da 500 e sto lavorando sotto la pergola del vino, là, dove ci sono le barbatelle. Capo, sì. Ok, dai, ci sentiamo allora. Ciao Tino. Aspetta, non ci vuole, sono ogni tanto, ma non lo vuole. Va bene, ciao. Avanti, va bene. zappa. E anche adesso chiudo, dai signori, vi saluto, grazie del vostro, domani se coincide ci sentiamo, dai, è sempre un piacere, belle chiacchierate, argomenti vari e interessanti, sempre piacevoli, dai. Saluto a Franco, saluto di nuovo a Tilo che è andato via, a Gavino, buon tutto a tutti, buonanotte, buon divertimento se continuate a parlare, e come si chiama, buona giornata per domani, e saluto anche eventuali qua amici in ascolto SWL sul canale 10. Ciao ciao, io vado in corretti, di nuovo a tutti, ciao ciao. Ciao Roberto, buona serata, buon lavoro, ci devi lavorare. Ehi, domani mi sa che tocca lavorare. Buon lavoro per domani. Ciao, ciao. Mi sa che avete parlato in due. Ciao Roberto. Dai, tutto alle prossime. Buonanotte, buon tabacco per domani.